Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Si vota e si fanno le liste per le elezioni europee, le liste per le elezioni amministrative. Alla fine tutto andrà in porto, perché poi le democrazie moderne funzionano così: tanta chiacchiera, tanta litigiosità, ma però poi alla fine si realizza il prodotto, diciamo, il prodotto di linea, il prodotto industriale, che è appunto la democrazia, la decisione politica attraverso le elezioni. Però l'Italia è un paese, come sempre, sorprendente, un po' anomalo, con tante cose strane, fantasiose, diverse. Non so, per esempio, faccio un caso: nel Partito Democratico adesso si è aperta una strana questione secondo la quale il capolista del Sud, Paolo De Castro, non si dovrebbe candidare, perché se si candidasse e riuscisse eletto, cosa ovvia perché lo candidano capolista, poi subentrerebbe un senatore che è stato oggetto di un'indagine, e quindi una cosa assurda, no? Non mi posso candidare perché sennò poi subentra in Senato un senatore oggetto di indagini. Si vedrà, le indagini magari finiscono in nulla, non lo so, una cosa di normale amministrazione, naturalmente una, però lì, allora, c'è divisione, c'è chi dice non vogliamo il subentrante, e vabbè. Oppure ci sono polemiche durissime, per esempio viene candidato, non so, Cofferati nel nord-ovest, Piemonte, Liguria, eccetera, eccetera. Allora la Presidente della Regione dice non mi piace, è un pensionato di lusso, non mi va bene, eccetera. Viene candidato il professor Luigi Berlinguer nel Nord-Est, e allora Cacciari, il sindaco di Nord-Est, dice non mi piace, non va bene, cioè personalmente non hanno niente da dire. Ma non, cioè c'è una specie di rivolta dei grandi amministratori contro le scelte. Quindi c'è una cosa strana, insomma, no? Una forma di... Una volta si concorreva alla decisione e poi le liste erano il momento in cui tutti dicevano si fa cartello e si chiedono i voti. Non parliamo del PDL. Nel PDL c'è una situazione abbastanza paradossale. C'è attualmente in corso una sorta di rapido... corso di formazione, diciamo, politica, per delle ragazze, giovani signore, giovani donne, che sono, come sappiamo perché già è avvenuto nel caso delle elezioni politiche, la prima scelta di immagine e di punta del presidente del PDL, di Berlusconi, da mettere nelle liste per vincere, conquistare la simpatia, l'affetto e il consenso degli elettori. E molte sono soubrette, attrici, protagoniste del Grande Fratello, letterine, veline, letteronze. Io non sapevo neanche che esistesse questa categoria professionale della letteronza. Allora, naturalmente, le ironie si sprecano, il sarcasmo, il disprezzo, oppure invece reazioni anche di segno diverse, lo vedremo nel corso della trasmissione. Perché si dice che non si può, bisogna essere competenti, bisogna essere così professionisti entro certi limiti della politica, bisogna avere ricoperto ruoli sociali, diciamo, accettabili, no? Allora, moralismi di ogni tipo, oppure anche indignazioni politiche, ma insomma, tutti quelli che poi la sfangano, lavorano, eccetera, questo fatto di avere una bella faccia, un bel sorriso, di essere attraenti, può diventare veramente un elemento della conquista del consenso politico in una democrazia? Insomma, sono discussioni, sono questioni, bisogna risolverle. E abbiamo qui riunito il senatore Nicola Latorre, vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, e con lui Fausto Raciti, segretario nazionale dei giovani del Partito Democratico, particolarmente combattivo, che ha detto: io queste liste non le voto, non alle elezioni naturalmente, ma negli organi del partito. Dall'altra parte abbiamo Denis Verdini, che è il coordinatore del Partito del Popolo delle Libertà, deputato naturalmente, dovremo avere in collegamento per un certo periodo anche dalla Camera Alessandra Mussolini, che ha chiesto la reciprocità. Ma vedremo di che cosa si tratta. Bene, 800 24 00 24. Partiamo dalla questione delle candidate attraenti, giovani, belle ragazze di Berlusconi. Io propongo una tesi, vediamo se siete d'accordo. In democrazia questo è lecito. Cioè, in uno Stato liberale, in una società liberale un po' così antiquata, fondata sulla dialettica istituzionale, sulla formazione delle élite, beh, effettivamente non ci dovrebbe essere spazio. L'America, per esempio, è così, è una democrazia, è una liberal democrazia. Il denaro seleziona le élite, la gente va col denaro nelle università d'eccellenza, Obama va a Harvard, devi avere studiato, insomma, per entrare. E poi dopo anche lì ci sono problemi, cose, eccetera, si inseriscono elementi, però fondamentalmente c'è un filtro, no? È una liberal democrazia basata sul governo dell'élite. L'Italia non è così. Ci sono stati per un periodo i partiti a fare da filtro, ma poi con la fine dei vecchi partiti, strumento di selezione delle classi dirigenti, l'Italia è diventato un paese in cui si deve essere rappresentativi, non... Poi certo si deve essere decenti, ci si deve formare, si deve imparare il mestiere della politica, ma fondamentalmente, così come una volta nella democrazia italiana, che non è mai stata una democrazia liberale, perché era una democrazia fondata dai democristiani e dai comunisti, cioè da grandi forze popolari, e forgiata la stessa Costituzione, fondata sul lavoro, di rappresentanza sociale. Cioè, così come sono stati portati i cafoni in Parlamento, cafoni dico per dire un ceto sociale, no? I poveri del sud che non avevano un alto grado di alfabetizzazione, che avevano esperienza sindacale, che avevano fatto le lotte contadine, quella era l'Italia d'allora, agricolo-industriale, così come l'Italia si è rappresentata attraverso le professioni, i ceti medi, medio-bassi, eccetera, così oggi c'è spazio per un mondo che è un mondo reale, che si rappresenta e di cui fanno parte appunto le grandi protagoniste dell'immaginario televisivo, che di questo poi si tratta. Alessandra Mussolini, è d'accordo? Ma io credo che anche con la legge elettorale che noi abbiamo, dove abbiamo certamente un minore contatto con il territorio perché non c'è più la preferenza, prima mi sembra di capire che lei parlava di Vittorio, ad esempio, che fu eletto e fece un discorso da cafone orgoglioso di esserlo, certo. Però perché proprio rappresentava una categoria fortemente attaccata al territorio. Adesso non è più così, c'è una leggerezza e c'è sostanzialmente una posizione del Cavaliere che finora è stata vincente, quella di dire puntiamo anche sull'immagine. Adesso a queste europee ci sono state e ci saranno le letteronze, giusto? Giusto. Sono persone che non hanno mai fatto politica, che inizieranno adesso e sono giovani. Io voglio ricordare che il PD, oggi ci sono delle critiche dove si parla di gerontocomio nelle liste del PD per le europee, quindi può essere un fatto estremamente positivo, solo che io ho detto dateci la par condicio, la reciprocità, perché a me stanno bene le letteronze, benissimo, però dateci letteronzi, cioè non possiamo noi... Cioè chi? Raul Bova, Costantino, chi? Certo, non siamo... No, faccia i nomi, Mussolini, faccia. Allora, noi non ci possiamo ritrovare in lista con persone stimabili che conosco, simpatici, amici, insomma Zappalà, Pomicino insomma, e i letteronzi non sono abbastanza sexy per lei, no. Allora dateci Costantino, Riccardo Scamarcio, Raul Bova e mettiamo un blog e vediamo qualche altro tronista che noi possiamo trovare. Perché? Perché io voglio sempre dare questa, bisogna sempre porre dei principi, mi sta bene la lettera, figuriamoci, anche perché poi può essere molto più coscienziosa di altri che magari hanno fatto un lungo corso politico, siamo pure noi donne, cioè non deve esserci sempre la visione un po' più verso il maschile, ci siamo anche noi, dateci quello che ha vinto magari all'ultimo Grande Fratello, perché no? Mi piacerebbe, come si Ferdi, Ferdi, comando potrebbe far benissimo, soprattutto in Europa. Mica ci sono solo le letteronze, devo dire che è una posizione sorprendente, divertente, con un fondo anche di serietà. Cioè, dice, perché sempre, capito? Sempre al maschile, ma perché i letteronzi non c'è stato? Però adesso per tornare invece di Zappalà, per tornare invece alla mia osservazione, diciamo così, un po' più pedante, un po' più accademica. No, aspetti, volevo. volevo chiedere per esempio al senatore Latorre, la Biennale della Democrazia, tutta cosa, tutti i parrucconi, tutti i professoroni, la cosa, la Costituzione, il Teatro Regio, la conferenza del Presidente, molto interessante, molto buona, sulla Carta Costituzionale. C'è una democrazia delle istituzioni, delle accademie politiche, eccetera, della tradizione, della rappresentanza, eccetera. E poi c'è la democrazia popolare, dove esistono queste cose, cioè raccoglitori di consenso, personaggi simbolo che in una dimensione elettorale così vasta, bisogna raggiungere milioni e milioni di persone che hanno come unica mediazione spesso la televisione, la radio, i mezzi di comunicazione di massa, possono avere una loro funzione. Lei, senatore Latorre, accetta in linea di massima il fatto che in una democrazia tutto questo è naturalmente non soltanto legale, come ovvio, ma anche intellettualmente, culturalmente legittimo? Ma qui il problema non è di legittimità o illegittimità. Lei pone un problema, secondo me, che è estremamente serio, che poi è la vera questione, e cioè quali sono i meccanismi di selezione della classe dirigente nel nostro sistema democratico. Perché, come giustamente lei diceva, ciascuna democrazia, e questo testimonia il fatto che la democrazia è qualcosa che si può riempire di contenuti anche diversi, ciascuna democrazia ha i suoi meccanismi di selezione. Noi siamo stati abituati per un lungo periodo, nel dopoguerra, ad un meccanismo di selezione che passava attraverso le formazioni politiche. E effettivamente questo meccanismo di selezione ha consentito comunque a grande parte della società italiana di accedere ai ruoli di protagonisti della vicenda democratica. Negli Stati Uniti, come lei giustamente diceva, i meccanismi di selezione sono altri. Quando sono finiti questi partiti, nel nostro sistema democratico i meccanismi di selezione si sono affidati a intanto in una prima fase la classe dirigente di questo paese è stata in un primo periodo di transizione espressa da alcune grandi istituzioni del nostro paese, penso alla Banca d'Italia. Poi c'è stata Tangentopoli ed una delle realtà che ha offerto classe dirigente al nostro paese è stata la magistratura. Poi è arrivato Berlusconi e ha impresso un meccanismo di selezione della classe dirigente molto funzionale alla sua idea della democrazia, una cosiddetta populista, ma non lo dico con disprezzo, lo dico anche con riferimento alle considerazioni che faceva lei. Un meccanismo di selezione che ci espone ad una serie di rischi, e cioè al fatto che poi noi abbiamo una classe dirigente assoluta che risponde ad alcune esigenze, ma che non è probabilmente in grado di, almeno questa è la mia opinione, di esprimere, di indicare una prospettiva, di gestire il sistema paese corrispondendo agli interessi generali. Allora io voglio dire con chiarezza, il fatto che una soubrette o un personaggio pubblico possa essere candidato, possa essere assolvere, a me non crea problemi. È un lavoro anche quello. Credo che sarebbe anche sbagliato assumere un atteggiamento così piuttosto puzza sotto il naso, con la puzza sotto il naso. Il problema qual è? È che se la ragione per cui una soubrette si impegna in una vicenda di questo tipo è esclusivamente quella che risponde ad esigenze di immagine, di simpatia, attrazione, piacere, eccetera, io sono piuttosto preoccupato. Se invece questa soubrette ha accompagnato il suo impegno, il suo lavoro con un impegno pubblico, con un lavoro al servizio di una causa, eccetera, anche fuori da una formazione politica. C'è qui il coordinatore del Popolo delle Libertà. Un momento, perché concludere con un'unica battuta. Prego. Naturalmente, grazie alla battaglia che noi abbiamo fatto, e che so che il mio amico Denis Verdini non ha condiviso, di difendere nelle elezioni europee il voto di preferenza, poi queste candidature per fortuna potranno essere selezionate dagli elettori, e io mi auguro che gli elettori selezionano con un voto di preferenza in base a criteri che non siano soltanto il tasso di gradimento delle trasmissioni televisive. Ma se una grande performer televisiva come la Marcuzio, un'attrice celeberrima come la Ferilli venissero da voi e vi dicessero vabbè candidateci, voi le candidereste al posto del vecchio professore di diritto Luigi Berlinguer? Ma se queste le mettereste intanto lista, il vecchio professore Luigi Berlinguer, no, credo che abbia qualcosa di molto importante da dire, certo, la sua persona rappresenti anche qualcosa di molto importante. Su questo importante, deve convincere, ecco, il sindaco di Venezia Cacciari. Convincerò il sindaco di Venezia Cacciari, ma è del tutto legittimo. Sì, certo, certo. Sì, perché a me il fatto che si debbano scegliere le candidature con la carta d'identità ma è una cosa che mi lascia. Le prendereste o no? Le candidereste? Perché non candidate le belle ragazze pure voi? Questa è la domanda. Ma noi, ma a parte il fatto, diciamo, che le candidate, noi candidiamo tante ragazze e poi non mi appassiona molto se questa categoria belle e brutte ragazze, anche perché è una categoria molto soggettiva. Ho capito, e relativa. Ho capito. Noi candidiamo molte ragazze e ritengo che se per esempio ci sono personalità dello spettacolo che si sono impegnate in battaglie, che hanno avuto, ora non voglio fare dei nomi, sarebbe del tutto legittimo anche candidarle, ci mancherebbe altro. Verdini. Onorevole Verdini, dunque io ho un sospetto che in Berlusconi ci sia non soltanto la volontà di prendere voti, che è una sua caratteristica, se non sbaglio, ama prendere voti, no? Sostanziale, sì, campagna elettorale. Molto, sì, è molto concreto, molto pratico. Certo. E pensa che questo sia un buon modo per prendere voti, punto. Pragmatismo assoluto. C'è anche un elemento un po', come dire, di sberleffo. Secondo me Berlusconi immagina la prima riunione del prossimo Parlamento europeo, immagina poi i suoi partner, i capi di governo, i capi di Stato, eccetera, e il fatto che insomma lui porterà lì una qualità, una particolarità, è il grande impresario televisivo e quindi cioè non si mette la parrucca, non fa il parruccone, fa il re che può tutto, e io vi mando le belle ragazze che fanno parte del mio panorama. Poi sono sicuro che sarà attento, lui è sempre qualifica il loro curriculum, mi ricordo, no, ma la Carfagna ha fatto il conservatorio, poi quell'altra ha fatto, la Gelmini ha fatto politica, perché è vero, ha fatto politica, è stata coordinatore in Lombardia, cioè lui poi si preoccupa di dare, però la cosa che gli piace secondo me è stupire. Fare come fanno, no, dice io posso tutto, e allora vi stupisco portandovi una bella delegazione di ragazze che tutti i giornali europei saranno lì a discutere, ma chi sono queste, dove vengono fuori, com'è la Repubblica di Berlusconi, è così o no? Un po'. Ma è così, la prima risposta dovrei darla insomma in base a quello che ho ascoltato, ovviamente, no? Non è la prima volta, neanche a sinistra, ora la domanda non ha risposto la Torre, ma insomma, che sono candidati, attori, attrici, no, certo, rispondo anche alla Mussolini, voglio dire, è una modalità con la quale la politica italiana si è confrontata da molto tempo. C'è un chiasso intorno a questa storia, come le ha detto direttore, comunque si guarda al curriculum, al fatto di conoscere due lingue, al fatto delle lauree, perché questo, certo, rientra nel quadro, certo, poi appare soltanto una parte e, certo, si sottovaluta l'altra parte. Questo diciamo per rimettere le cose al loro posto. Ed è chiaro che il presidente Berlusconi ha questa visione che io condivido, per cui di interpretare la politica in modo diverso, e su questo anche di stupire in un certo senso. Ed è vero. E naturalmente poi è un uomo che, a differenza di quello che si dice, non comanda da traccia e dopo ci lascia lavorare, come stiamo facendo in questi giorni sulle liste, al quale ci sono anche le correzioni che ricordava la piccola Torre, voglio dire, c'è le liste con le preferenze in questo caso, e quindi tutto poi viene ridimensionato in un alveo molto più come dire, ristretto rispetto alla prima fase. E poi io vorrei dire un altro discorso, che è tanto tempo che si discute di democrazia, di che tipo di democrazia e di un sistema paese, e non è che prima dell'avvento del presidente Berlusconi si sia trovato delle grandi soluzioni. A me pare che le bicamerali precedenti, con grandi intelletti, con una selezione di classe dirigente che veniva dal passato, dal filtro dei partiti, non è che abbia trovato una soluzione di modernità per questo paese. Ci ha riproposto Pateracchi, Pateracchi e Pateracchi. L'ascesa in campo di Berlusconi, uno può giudicare come gli pare, ha aperto un varco e ha se non altro ha dato un grande tratto di modernità al paese, facendo somigliare il nostro paese anche ad altri, con sistemi diversi, con modalità diverse. Lei dice, prima di impiccare Berlusconi a questo suo capriccioso, esatto, a questa sua capricciosa volontà di stupire, teniamo conto che poi lui ha fatto... Vabbè. 800 24 00 24, per parlare con l'elefante, con i suoi ascoltatori. Abbiamo qui Graziella da Como. Graziella. Sì, buongiorno. Niente, volevo fare un'osservazione provocatoria. Prego. Visto che i nostri politici, bene o male, ce li rivediamo tutti i giorni in trasmissioni abbastanza leggere, talk show, in veste di ballerini, in veste di chi riceve torte in faccia, perché no avere delle persone che sono già esperte del settore spettacolo? Ho capito, proposta provocatoria. Senta Graziella, ci sono, le cito due pareri. Sull'unità, Lidia Ravera, che dice: è avvilente non che le liste elettorali del centrodestra pullino di belle figliole, ma che costoro siano state compattamente rimorchiate nel retropalco del gran varietà televisivo. Insomma, una stroncatura, dice: no, non si può, non si deve. L'Unità fa due pagine con le foto molto belle delle gemelle De Vito, di Camilla Ferranti, di Eleonora Gaggioli, di Barbara Matera. C'è un altro commento molto duro, eccetera, della direttrice. Invece sul Riformista, Ritana Armeni dice: ma una volta si faceva politica sul corpo delle donne, cioè adesso con il corpo delle donne, e sembra quasi dire perché no. Lei dice che il corpo in politica abbia sempre più importanza non è una novità. Basta notare la cura dell'immagine da parte dei nostri leader o l'importanza che hanno assunto i corpi atletici palestrati di Barack Obama e di sua moglie Michelle per rendersene conto. E poi dice, vabbè, tutto sommato è un progresso. Sono adulte, consenzienti, sono attraenti e vengono messe in lista anche per questo. Ah, Verdini ci ha appena detto che si fa studio di essere molto chiari nel fatto che ci vogliono anche altri titoli, che si inizia un percorso che è un percorso, diciamo, di professionalità politica, però anche per questo. Lei che dice, Graziella? Ma io ritengo che, dato che sono poche le donne che ci sono in Parlamento, vorrei essere rappresentata da persone diverse. Ho capito, va bene, lei è critica, quindi molto critica. Carlo da Milano. Pronto? Sì. Salve Ferrara, non so se si sente bene. Si sente benissimo, prego. Ok, niente, volevo solo fare un'osservazione che così accontentava anche l'onorevole Mussolini in qualche modo. Diciamo che non la trovo una assoluta novità, perché ricordo in epoca tardo socialista Gerry Scotti e qualcun altro fu candidato, vinse. La perplessità allora, ero un pelo più giovane, oggi ho 42 anni, rimane la stessa, cioè di fatto non assistemmo a chissà quali performance di attività politica, ma perché è normale e naturale che sia così. Per conto mio, ripeto, rimango avvilito come esattamente come lo sono stato all'epoca. Penso che ci sia un processo di involuzione, sarà moralismo, sarà non so come tradurlo, però la prima sensazione che mi colpisce già che si parli e che ci sia un'esegesi di certe scelte, dovrebbe colpire immediatamente con un pugno sullo stomaco e passare via. Sì, lei dice: io sono contro senza se e senza ma. Sentiamo invece, bravissima. Grazie. Luca da Torino. Luca. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io, diciamo così, mi è stato chiesto di recente di avvicinarmi alla politica in maniera diretta, no? Quindi, diciamo così, chiacchierando ho portato avanti delle idee che avevo, concrete, sì, e sono risultate interessanti. Poi però all'atto pratico la scelta sostanzialmente non è ricaduta poi tanto sulle idee o sulle soluzioni che uno può proporre, ma sulla sua, diciamo così, popolarità. Quindi da un certo punto di vista dico: ok, se dobbiamo raccogliere solo voti, è chiaro che probabilmente queste persone hanno molta più popolarità di me, faccio per dire. Resta il fatto che io pongo anche quest'altro punto di vista: con chi stiamo andando a confrontarci? Cioè, cerchiamo anche di pensare al Parlamento europeo tutte le altre nazioni che tipo di figure schierano nelle discussioni. Per cui, voglio dire, la nostra rappresentanza va benissimo, l'innovazione eccetera, però a me piacerebbe anche capire quali sono i contenuti poi concreti di queste persone, non solo la loro popolarità, perché alla fine sembra che le soluzioni, le idee concrete che le persone possono apportare ricoprono sempre un ruolo secondario. Va bene, secondo me dovrebbe... Grazie Luca, si capisce anche bene quale sia la sua opinione. Alessandra Mussolini, vorrei fare, poi chiederò a Raciti di introdurre invece il tema delle liste del Partito Democratico, un'ultima domanda, perché so che deve poi continuare il suo lavoro lì alla Camera dove sta. Mussolini, la questione, se poi dopo questi personaggi, che è caduta la linea di Alessandra Mussolini, allora Raciti, ecco, vorrei sapere l'opinione di un giovane dirigente del PD sia sulle liste del PDL e sulle cose di cui abbiamo parlato fino adesso, le giovani e belle donne selezionate anche per la loro capacità di comunicare simpatia e di ricevere affetto e consenso da un pubblico molto vasto, fruitore dei mezzi di comunicazione di massa. Se questo è una cosa che è legittima, appunto, in una democrazia moderna, o dobbiamo trattarla con spocchia, con moralismo, insomma, dobbiamo comunque censurarla. E poi volevo sapere perché lei è contrario alle liste che il Partito Democratico ha elaborato per le elezioni europee. Beh, a me sembra una scelta legittima, nella misura in cui queste sono elezioni con preferenze, per cui gli elettori possono scegliere di chi farsi rappresentare. Poi una mia personale teoria, cioè a me sembra che Berlusconi abbia le idee molto chiare, una sua personalissima opinione sul tema di quale sia il vero motore del mondo, e su quello gioca anche in campagna elettorale, e non sto parlando dell'economia ovviamente in questo caso. Cioè la sua idea è che il motore del mondo è il piacere, è la... Mettiamola eufemisticamente così. È la ricerca della felicità, diciamo. Esattamente. E lui la individua in questi grandi simboli, diciamo, di allegria, di divertimento di massa. Sì, sì. E vedo, infatti c'è Stefania da Bergamo che dice: 20 anni dopo l'immaginazione al potere reincarnata in Berlusconi. Sentiamo Stefania da Bergamo se ci fosse un parere non sfavorevole alle letterine. Sì, io la sento. Sì, sento. Prego. Dica, Stefania. Diciamo appunto che con Berlusconi, lo slogan del 68 che c'era sui muri dell'università si è incarnato nella sua figura, perché effettivamente mi sembra di capire che pur usando le regole della democrazia, secondo me Berlusconi non ha messo in atto un regime, ma le riempie appunto della sua immaginazione per costruire una democrazia a sua immagine e somiglianza. Va bene, grazie Stefania. Prego Raciti, continui il suo giudizio. Per cui diciamo legittimo ma con riserva. Sì. Io mi chiedo una cosa in maniera insistente, cioè se non fosse più semplice rifare i partiti. Cioè, anziché cercare la soluzioni e le soluzioni spettacolari alla politica, se non fosse più semplice in questo paese provare a ricostruire dei partiti che facessero selezione come normale, come che sia, della classe dirigente sulla base del consenso. Ovviamente del consenso elettorale. E questo è quello che forse in maniera un po' conservatrice mi piacerebbe vedere in questo paese, mi aspetto dal mio partito. Io ho aperto una polemica con il mio partito in direzione nazionale, questo si sa su come sono state composte le liste, non perché ci siano pochi giovani o troppi vecchi. Se Napolitano domani si candida segretario del PD, io lo voto. Ma per un'altra ragione, perché noi abbiamo chiesto di misurarci su questo criterio, che è quello del consenso, in una competizione aperta con le liste, con le preferenze, e non c'è stato possibile. Questa è la ragione per cui ho dissentito. Noi abbiamo chiesto chi è... La mia organizzazione, che è l'organizzazione dei giovani del Partito Democratico, ha chiesto di poter essere presente all'interno delle liste con alcune figure e di misurarsi, per potersi misurare su quelle figure. Non è stato possibile. Questo ci è, anche qui eufemisticamente, molto dispiaciuto, e per questa ragione ho dato un segnale di dissenso. Ma voglio dire, c'è una filosofia dietro la formazione delle liste, no? Allora, qui la filosofia è un segretario, un po' di transizione, che segue al crollo della precedente segreteria, che aveva tutt'altra legittimazione con le primarie, anche se Franceschini era nel ticket con Veltroni. Però questo segretario deve mettere insieme, naturalmente, questo è normale, no? Ci sono le componenti del partito, quelli che contano di più, che fanno più parte della sua storia. Poi c'è la questione ancora, in qualche modo, in qualche misura, diciamo, delle provenienze, quelli che vengono dalla vecchia sinistra democristiana, dal centro cattolico, che si considerano insomma parte di un mondo culturale moderato. Poi ci sono gli ex DS, gli ex comunisti, allora i post comunisti. Allora, vabbè, c'è questa filosofia. Cos'è che contestate? A parte il fatto che non hanno messo una delegazione di giovani combattivi della vostra organizzazione, questo è normale, poi lei è capo di una constituency, è capo di un pubblico che pretende di... Ma, insomma, l'ex ministro della pubblica istruzione, persona rispettatissima da tutti, Luigi Berlinguer, però sembra appunto una scelta vecchia, Cofferati, la storia del bambino, l'ha un po' messa in burla, perché per stare vicino al bambino che sta a Genova, trasferirsi da Bologna a Bruxelles sembra una cosa assurda. Oppure, non lo so, qual è la cosa? Sassoli, le piace Sassoli? Invece di Bettini, fondatore del PD, invece no, Sassoli, che è un bravo conduttore di telegiornale, dà un'esperienza di militante cattolico. Io dico che va tutto bene, nel senso che va bene mettere Sassoli, va bene mettere un giornalista che pure viene da un percorso politico, perché no, come dire, ha un passato Sassoli che è fuori, certo, esclusivamente dal mondo della carta stampata. Va bene Luigi Berlinguer, capolista, uomo di grande esperienza, di grande solidità, grande ministro della pubblica istruzione. Dico che però non basta. Dico che però in un partito che dice di essere aperto, che dice di essere contendibile, se si vuole dare un segnale di novità vero, e di contendibilità vera e di rinnovamento vero, bisogna mettere in condizione una generazione nuova di potersi misurare con il consenso, di mettersi in campo con le proprie facce, con le proprie idee e anche con i propri numeri. Questa rivendicazione, se vuole, ha più senso proprio perché non si tratta di liste bloccate, perché e per questo non viene capita e non viene letta. Quindi perché giustamente mi si oppone che la gente scelga, certo il pubblico scelga, gli elettori scelgano. Bene, a Denis Verdini affido l'opinione di Giovanna dalla provincia di Imperia, perché sì? Discuta, Arma d'Italia. Ecco, prego, Arma d'Italia. Giovanna, allora, dica. Io sento, non mi intendo di politica, però seguo un pochettino quello che mi posso. Mi sembra, no, che si parla delle veline. Berlusconi, senza voler offendere nessuno, Berlusconi è una specie di, non dico velina, ma insomma sul campo c'è. Perché lui, politico, secondo la mia opinione, non è mai stato un politico, non ha fatto una carriera politica, o no? Ma non so, Verdini secondo me l'ha fatta, ha vinto le elezioni tre volte. Presidente del Consiglio, più di così. Ma lui non era un politico classico. Certamente. E per quello ha fatto carriera, perché non piacciono più i politici classici, ma piacciono appunto quelli. E allora, perché non mettiamo le veline o le velone o quello che vogliamo? No, potrebbe anche riuscire una cosa inimmaginabile come è stato lui. Bene, sentiamo la risposta di Denis Verdini. Verdini. Sì, do una risposta anche, diciamo, a Raciti, perché quello che ho ascoltato da parte di Raciti mi sembra, come dire, che parli alla classe dirigente. Alle elezioni si parla agli elettori, e quindi risponde anche alla signora. Io ho ascoltato le critiche verso il PDL, come mi sembrava giusto, ma ho da muoverne moltissime alla sinistra, in ritardo su questa roba. Questa discussione di come si fa le liste, delle rappresentanze, riguarda la classe dirigente che gli elettori non amano. O si capisce questo ragionamento, se no la politica trova difficoltà. Qui Berlusconi ha capito prima degli altri e su questo non ci piove. Quindi accettiamo pure le critiche delle varie formazioni, ma una delle forme della democrazia è il consenso, su questo non ci piove. Ora, o si dice che si inganna per prendere il consenso, oppure si dice che si interpreta per prendere il consenso. Io penso che noi stiamo interpretando un atto di modernità. Quel modo di ragionare non piace agli elettori. Ora, non voglio dire le letterine, come dice la signora, vediamo l'esploit, però dico che è una interpretazione più moderna della politica, senza paura, che non si fa scandalo di avere gente allegra e giocosa. Non è un reato l'ottimismo, non è un reato prendere il lato migliore della vita e portarlo come elemento politico. Raciti, il grigiore e la tristezza. Per sentire come percepisce questa lezione, diciamo, di politica berlusconiana il giovane Raciti e poi la torre. Io resto uno di quelli convinti che questa più che politica sia antipolitica, cioè pensare che la politica possa farsi senza classi dirigenti è un'idea, come dire, curiosa. Anche se non nuova in questo paese, dopo la fine dei partiti. Ma autodefinizione di classe dirigente è pericoloso. Non mi autodefinisco classe dirigente, non penso che una classe dirigente si possa autodefinire. Però credo, si forma. Credo che sia meglio quando si forma nei partiti che non nelle televisioni. È autoreferenziale. E questo, no, non è autoreferenziale, è la democrazia. No. È quando una democrazia funziona, è quello che succede nel resto di Europa. Dove non, come dire, non si va a pescare fuori dai partiti, ma i partiti hanno la capacità con la democrazia e col consenso di rinnovarsi. D'Europa però non c'è il criterio della preferenza, sono i partiti che scelgono. Quindi saresti in difficoltà, non ce n'è uno. No, magari sulle elezioni europee, ma sulle elezioni politiche ci sono meccanismi assolutamente paese diversi. Europeo assolutamente diversi. Ci sono sistemi, come dire, elettorali maggioritari, ci sono proporzionali, però ovunque i partiti non devono inventare figure. Non devono inventare figure che vengono da fuori. Comunque il tema sono è in grado il di selezionarle il da consenso dentro. Come chiave di tutto, ecco, Verdini riproponeva questa idea di Berlusconi, che il consenso è la chiave di tutto. Quando Berlusconi è entrato in politica ha detto: qui c'è un consenso orfano, scompaiono i partiti, scompaiono i punti di riferimento, io lo organizzo. Poi in generale lui dice, le polemiche sulla par condicio, sulle televisioni, il consenso è quella cosa lì che si produce attraverso un buon impatto televisivo con la grande maggioranza su questo degli elettori. non c'è dubbio in democrazia è perfettamente legittimo, proprio perché è un ragionamento che si fonda sul consenso. Il problema è anche però scusatemi, ma la qualità di una democrazia. Noi siamo in una democrazia. Uno si giudica da solo, la qualità la giudicano gli altri. È un mondo nuovo, bisogna fare attenzione. Beh, insomma, è un mondo nuovo, il nostro senza dubbio è del tutto originale. Dopodiché siamo in un paese. Io sono convinto di capire più di tutti che di rischia, politica, ma che conto rischia, uno come gli altri. Non credo che i voti si pesino, i voti si contano. Sono d'accordo, non sto facendo valere un altro criterio. Sto dicendo che molto semplicemente noi siamo un paese in cui la politica non riesce a dare più risposte. La torre. Ma io intanto qui non è in discussione chi è per la democrazia e chi è contro la democrazia. Io credo che tanto Verdini quanto Raciti quanto io credo che siamo abbastanza convinti. Anche la Mussolini, è una fiera democratica. L'abbiamo salutata prima. E che il tema del consenso in democrazia sia fondamentale mi pare altrettanto ovvio. Anzi, su questo tema del rapporto tra democrazia e consenso c'è molta discussione, molta riflessione. Così come, e vengo alla questione, la popolarità in politica è fondamentale, intendiamoci. E qui noi non pensiamo che la categoria debba dividersi in politici popolari e politici impopolari e che però governano a dispetto dei santi. Il tema è che mentre in politica la popolarità, il consenso deve essere costruito attorno ad un'idea che è quella di essere in grado di interpretare l'interesse generale del paese, il massimo degli interessi diffusi nella società, nello spettacolo la popolarità risponde ad un'altra esigenza, che è quella di incantare, di intrattenere, di piacere. Ora, quindi qui il problema è il consenso in democrazia a cosa si deve ispirare, su che cosa si deve fondare. Ora io qui, attenzione, non vorrei che si tornasse indietro, perché probabilmente se noi torniamo indietro rischiamo di non rispondere alle esigenze di questo mondo nuovo. Allora il problema vero è che oggi la politica deve essere in grado di rendere protagonisti i cittadini in un mondo nuovo. A me una politica che non rende protagonisti i cittadini, ma cerca soltanto di incantarli per poi assumere una volta per tutte la rappresentanza per gestire questo passaggio nel mondo nuovo è una democrazia che a me non piace, ma non è che non è democrazia, non è che possa incantare ancora Berlusconi, attenzione, la prima volta può incantare, ti sto dicendo, a me questa non è che non è democrazia, è una democrazia che mi piace purtroppo di meno. Non abbiamo più tempo, sarebbe molto divertente andare avanti, direi che possiamo chiudere auspicando uno spirito meno parruccone a sinistra e forse, come dire, una leggerezza un po' più radicata. Mi passo le mani, cioè. Ecco, non lo so di come dire. Però, d'altra parte, voi state facendo il corso di formazione accelerato. Ho visto che dura 3 giorni, ma no, fatelo di 3 settimane almeno. Le liste vanno presentate il 27, proseguiremo. Ah, ecco, dopo. Certamente, i corsi di formazione non finiscono mai. Va bene, auguri a tutti e buone elezioni a tutti. Io devo salutare gli ascoltatori che sono stati molto, molto carini nel pazientare, e Franca Fossati e Gloria Guerrero in redazione, Alessandro Chiappini e Giorgio Mattei in regia, linea al GR speciale terremoti, e poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani, baci.